Capitolo 15. Un grande storico, come insisteva nel volersi chiamare, che ebbe la fortuna di morire 120 anni fa e quindi prendere posto fra i colossi sotto le cui gigantesche gambe si vede camminare la nostra pochezza di esseri viventi, si vanta delle sue copiose osservazioni e digressioni, come della parte meno imitabile della propria opera. E soprattutto, in quei capitoli iniziali dei successivi libri della sua storia, dove sembra portare la poltrona sul proscenio e chiacchierare assieme a noi, con la vigorosa disinvoltura del suo inglese raffinato. Ma Fielding visse quando i giorni erano più lunghi, perché il tempo come il denaro si misura dai nostri bisogni, quando i pomeriggi estivi erano dilatati e l'orologio scandiva lentamente il tempo nelle sere d'inverno. Noi, storici tardivi, non dobbiamo attardarci dietro il suo esempio, e se lo facessimo è probabile che la nostra chiacchierata sarebbe esile e impaziente, come se fosse pronunciata da un seggiolino pieghevole in una gabbia di pappagalli. Io perlomeno devo darmi tanto da fare a dipanare certi destini umani e a vedere come furono intessuti e intrecciati, che tutta la luce di cui posso disporre deve venire concentrata su questo particolare tessuto e non disperda su tutta quella gamma tentatrice di cose attinenti chiamata universo. Al momento devo far conoscere il nuovo arrivato Lydgate a chiunque sia interessato a lui, più di quanto lo conoscano coloro che l'avevano visto spesso dal momento del suo arrivo a Middlemarch. Che certo, ognuno deve ammettere che un uomo può essere incensato, portato alle stelle, invidiato, dileggiato, giudicato come uno strumento e oggetto di una passione amorosa, o perlomeno scelto come futuro marito. Eppure restare virtualmente sconosciuto, familiare solo come un ammasso di segni per le supposizioni infondate dei suoi vicini. Era impressione generale, comunque, che Lydgate non fosse assolutamente un comune medico di provincia, e a Middlemarch a quel tempo una simile impressione significava che da lui ci si aspettavano grandi cose. Infatti il medico di famiglia di ciascuno era notevolmente intelligente e si dava per scontato che possedesse un'abilità somma nel curare e nel modo di affrontare le malattie più capricciose o maligne. La prova della sua intelligenza era del massimo ordine intuitivo, riposava nella convinzione irremovibile delle sue pazienti ed era inattaccabile da qualsiasi obiezione tranne quella che le loro intuizioni erano contrastate da altre ugualmente forti. Ciascuna signora che vedeva una verità della medicina in Wrench e nel trattamento corroborante considerava Toller e il sistema debilitante una dannazione medica. Che i tempi eroici dei salassi abbondanti e dei vescicanti non erano ancora giunti al termine, e ancora meno i tempi di una teoria intransigente per cui la malattia in generale veniva chiamata con qualche brutto nome e curata di conseguenza senza se e senza ma. Come se, ad esempio, dovesse essere chiamata insurrezione, sulla quale non si deve sparare a salve, bensì far scorrere il sangue. I sostenitori dei corroboranti e quelli dei debilitanti erano tutte persone intelligenti, secondo l'opinione di qualcuno, il che in realtà è il massimo che si possa dire di qualsiasi talento contemporaneo. Nessuno si era spinto così lontano con l'immaginazione da supporre che Mr. Lydgate potesse saperne quanto il dottor Sprouge e il dottor Minkin, i due medici che unici potevano dare una qualche speranza quando il pericolo era estremo e quando la più esile speranza valeva una guinea. Tuttavia, ripeto, era impressione generale che Lydgate fosse una persona alquanto fuori del comune rispetto a qualsiasi medico generico di Middlemarch, e questo corrispondeva a verità. Non aveva che 27 anni, un'età in cui molti uomini sono un po' fuori del comune, in cui hanno fiducia di riuscire, sono risoluti, credono che Mammona non gli metterà mai in bocca il freno, che si metterà a cavalcioni sulla loro schiena, piuttosto che Mammona, se mai avranno a che fare con lei, tirerà il loro cocchio. Era rimasto orfano appena uscito da una scuola privata. Il padre, un militare, aveva provveduto in modo inadeguato ai suoi tre figli e quando il ragazzino Tertius chiese di studiare medicina, parve più facile ai suoi tutori acconsentire alla sua richiesta mettendolo come apprendista presso un generico di provincia, che non opporre delle obiezioni sulla base della dignità familiare. Era uno di quei ragazzi che si incontrano di rado, i quali assai presto mostrano una propensione decisa e scoprono che nella vita c'è qualcosa di particolare che desidererebbero fare per amore della cosa in sé e non perché l'hanno fatta i loro padri. Molti tra noi, che che ci dedichiamo a un qualsiasi argomento che amiamo, ricordano una qualche ora del mattino o della sera in cui sono saliti su un alto sgabello per prendere un volume mai aperto, o sono rimasti seduti a bocca aperta ad ascoltare uno sconosciuto che parlava, o per la mancanza stessa di libri hanno cominciato ad ascoltare le voci interiori, primo inizio rintracciabile del loro amore. Qualcosa del genere accadde a Lydgate. Era un tipo vivace e quando rincasava dai giochi si buttava in un angolo e dopo 5 minuti era tutto preso da qualsiasi libro su cui potesse mettere le mani. Se era Rasselas o Gulliver, tanto meglio, ma andava bene anche il dizionario di Bailey o la Bibbia con gli apocrifi. Qualcosa doveva leggere quando non cavalcava il pony, o correva e andava a caccia o ascoltava i discorsi degli uomini. Tutto questo accadeva quando aveva 10 anni. A quel tempo aveva letto per intero Crista o Le avventure di una Guinea, che non era né latte per i neonati né una qualsiasi mistura biancastra fatta passare per latte, e si era già reso conto che i libri erano fondamentali e che la vita era stupida. I suoi studi scolastici non avevano modificato granché quell'opinione, perché sebbene studiasse i classici e la matematica, non eccelleva in queste materie. Si diceva di lui che Lydgate poteva fare qualsiasi cosa volesse. Ma certamente finora non gli era andato di fare nulla di eccezionale. Era un animale vigoroso, con un intelletto pronto, ma nessuna scintilla aveva finora acceso in lui una passione intellettuale. Il sapere gli sembrava una faccenda assai superficiale, facilmente padroneggiabile, a giudicare dalla conversazione di quelli più anziani di lui. Aveva evidentemente già appreso più di quanto fosse necessario per una persona matura. È probabile che ciò non fosse il risultato eccezionale di un insegnamento costoso in quel periodo di giacchette dalla vita corta e di altre mode che ancora non sono risorte. Ma durante una vacanza, una giornata umida, lo fece andare nella piccola biblioteca di famiglia, a caccia ancora una volta di un libro che presentasse una qualche novità per lui. Invano. A meno che in effetti non tirasse giù una fila polverosa di volumi col dorso di carta grigia e delle etichette sporche. I volumi di una vecchia enciclopedia che aveva sempre lasciato indisturbati. Perlomeno sarebbe stata una novità il fatto di disturbarli. Erano collocati sullo scaffale più alto e montò su una sedia per tirarli giù. Ma per il volume che prese per primo dallo scaffale, in qualche modo uno è portato a leggere in una postura improvvisata, proprio dove potrebbe sembrare scomodo farlo. La pagina che aveva aperto era sotto l'intestazione di Anatomia. E il primo passo che attrasse i suoi occhi trattava delle valvole del cuore. Non era molto pratico di valvole di nessun genere, ma sapeva che le valve erano porte a fisarmonica e attraverso questa fessura si fece strada una luce improvvisa che lo fece trasalire alla prima vivida idea di un meccanismo ben ordinato nel corpo umano. Un'istruzione liberale l'aveva naturalmente lasciato libero di leggere i passi osceni dei classici studiati a scuola. Ma al di là di un senso generale di segretezza e di oscenità in rapporto alla propria struttura interna, essa aveva lasciato la sua immaginazione del tutto neutrale, cosicché, per quanto ne sapeva, il suo cervello era contenuto in sacchetti posti alle tempie e non aveva pensato a farsi una rappresentazione di come il suo sangue circolava, non più del perché veniva impiegata la carta invece dell'oro. Ma il momento della vocazione era giunto e prima di scendere dalla sedia il mondo gli sembrò rinnovato da un presentimento di processi infiniti che empivano i vasti spazi sottrattigli alla vista da quell'ignoranza verbosa che aveva supposto fosse il sapere. Da quell'ora Lydgate avvertì lo svilupparsi in lui di una passione intellettuale. Non abbiamo paura di ripetere più e più volte come un uomo giunge ad innamorarsi di una donna e sposarla oppure a dividersi definitivamente da lei. È forse per eccesso di poesia o di stupidità che non ci stanchiamo mai di descrivere ciò che Re Giacomo chiamò le fattezze e la bellezza di una donna. Non ci stanchiamo mai di ascoltare il suono metallico delle corde degli antichi trovatori e siamo relativamente indifferenti a quell'altro genere di fattezze e bellezza che deve essere corteggiato con pensiero operoso e una paziente rinuncia ai piccoli desideri. Anche nella storia di questa passione, l'epilogo varia. Talvolta c'è lo splendido matrimonio, talvolta la frustrazione e la separazione definitiva. E non di rado la catastrofe è congiunta con un'altra passione, cantata dai trovatori, che nella moltitudine di uomini di mezza età che si dedicano alla loro professione con un andamento quotidiano per loro determinato più o meno allo stesso modo del nodo della loro cravatta, vi è sempre un buon numero che un tempo ebbe intenzione di plasmare le proprie azioni e cambiare un po' il mondo. La storia di come siamo giunti ad essere plasmati come la media e adatti ad essere imballati a dozzine non viene mai raccontata, neppure nel segreto della loro coscienza, perché forse il loro ardore per un lavoro generoso e non pagato si raffreddò impercettibilmente come l'ardore di altri amori giovanili, finché un giorno il loro passato io si mise a camminare come un fantasma nella sua antica dimora e fece apparire spettrali i nuovi arredi. Nulla al mondo di più impercettibile del processo del loro mutamento graduale. All'inizio lo ispirarono inconsapevolmente. Può darsi che voi ed io abbiamo mandato un po' del nostro alito a contagiarli, quando abbiamo espresso le nostre menzogne conformiste o abbiamo tratto le nostre stupide conclusioni, o forse è giunto con i fremiti di uno sguardo femminile. Lydgate non voleva essere uno di quei falliti e si poteva sperare il meglio da lui, perché il suo interesse scientifico ben presto assunse la forma di un entusiasmo professionale. Aveva una fiducia giovanile nel suo lavoro retribuito, che non doveva venire soffocata da quell'iniziazione al compromesso chiamata i suoi giorni di apprendistato. Ed egli portò nei suoi studi a Londra, Edimburgo e Parigi la convinzione che la professione medica idealmente era la più bella del mondo, in quanto presentava il più perfetto scambio fra scienza e arte. Offriva la possibilità dell'alleanza più diretta fra conquista intellettuale e bene sociale. La natura di Lydgate esigeva questa unione. Era una persona emotiva, con un senso umano della fratellanza che resisteva a tutte le astrazioni dello studio specialistico. Amava non solo i casi clinici, ma John ed Elizabeth, soprattutto Elizabeth. Questa professione possedeva un'altra attrattiva. Aveva bisogno di una riforma e offriva a un uomo l'occasione di rifiutare sdegnato le decorazioni venali e altre imposture e di essere il detentore di abilità genuine, anche se non richieste. Andò a studiare a Parigi con il proposito che una volta tornato in patria si sarebbe stabilito in qualche cittadina di provincia come medico generico e avrebbe resistito alla separazione irrazionale fra conoscenza medica e chirurgica nell'interesse della propria attività scientifica, oltre che per il progresso generale. Si sarebbe tenuto lontano dalla portata degli intrighi, delle gelosie e del servilismo sociale di Londra e si sarebbe conquistato la celebrità, per quanto lentamente, come aveva fatto Jenner, col valore indipendente del proprio lavoro. Infatti, si deve rammentare che questo era un periodo oscuro e a dispetto di venerabili istituti che ricorrevano a grandi sforzi per assicurare la purezza della conoscenza, rendendola disponibile a pochi, e per escludere l'errore in base a una rigida selezione di rapporto a rette e ammissioni, succedeva che giovanotti assai ignoranti fossero promossi in città e molti altri si procurassero il diritto legale di esercitare in ampie aree del paese. Inoltre, l'alto livello rappresentato agli occhi dell'opinione pubblica dal Collegio dei Medici, che conferiva la sua particolare approvazione alla preparazione medica, costosa e altamente raffinata, ottenuta dai laureati di Oxford e Cambridge, non impediva alla ciarlataneria di passarsela assai bene. Infatti, dal momento che l'esercizio della professione consisteva soprattutto nel somministrare una grande quantità di medicine, la gente ne dedusse che avrebbe potuto star meglio se solo avesse potuto procurarsi più medicine ancora a poco prezzo e quindi ingoiava dosi spropositate di medicamenti prescritti da un'ignoranza priva di scrupoli che non aveva conseguito alcuna laurea. Considerando che la statistica non aveva ancora fatto un calcolo del numero di dottori ignoranti o falsi, che doveva assolutamente esistere a dispetto di ogni cambiamento, a Lydgate parve che un mutamento nel singolo fosse il modo più diretto di cambiare la massa. Egli intendeva essere quell'uno che avrebbe apportato una certa differenza al mutamento in atto, che un giorno avrebbe avuto un effetto apprezzabile sulla media e nel frattempo avrebbe avuto il piacere di introdurre una differenza vantaggiosa per l'intestino dei propri pazienti. Ma egli non mirava semplicemente a un genere di attività professionale più autentico del solito. Egli aveva l'ambizione di raggiungere un effetto più vasto e rinfiammato dalla possibilità di poter dimostrare una nuova concezione del corpo e diventare un anello nella catena delle scoperte. Vi sembra inopportuno che un medico di Middlemarch si sogni di essere uno scopritore? La maggior parte di noi, in effetti, sa poco dei grandi inventori, finché non vengono elevati fra le costellazioni e già governano il nostro destino. Ma quell'Ernst, per esempio, che infranse le barriere dei cieli, una volta non suonava l'organo di una chiesa di provincia e dava lezioni di musica a dei pianisti goffi. Ciascuno di quei dotti illuminati dovette camminare sulla terra fra dei concittadini che forse davano più importanza alla sua andatura e ai suoi abiti che a qualsiasi cosa che gli avrebbe dato diritto alla fama in peritura. Ciascuno di loro ebbe la sua modesta storia personale e locale, cosparsa di piccole tentazioni e sordide preoccupazioni che funsero da attrito ritardante nel suo cammino verso la compagnia finale degli immortali. Lydgate non era cieco ai pericoli di un tale attrito, ma aveva una grande fiducia nella propria determinazione ad evitarlo il più possibile. A 27 anni si sentiva esperto e non aveva intenzione che la propria vanità venisse tentata dal contatto con gli ostentati successi mondani della capitale. Ma voleva vivere fra gente che non intendesse rivaleggiare in quel perseguimento di una grande idea che doveva procedere di pari passo con l'esercizio assiduo della propria professione. La speranza che i due scopi si illuminassero a vicenda era affascinante. L'osservazione e la deduzione attente che erano il suo lavoro quotidiano, l'uso della lente per secondare il suo giudizio in casi speciali, avrebbe favorito il suo pensiero come strumento di un'indagine più vasta. Non era questa superiorità tipica della sua professione? Sarebbe stato un buon dottore a Middlemarch e proprio grazie a ciò si sarebbe mantenuto nel sentiero di un'indagine di vasta portata. Su di un punto poteva giustamente aver diritto all'approvazione già in questo stadio della sua carriera. Egli non intendeva imitare quei filantropi che ricavano un profitto da imbrogli velenosi per sostenersi mentre denunciano la corruzione o sono azionisti di una bisca per essere liberi di rappresentare la causa della moralità pubblica. Nel proprio caso, egli intendeva dare l'avvio a una qualche particolare riforma che fosse con assoluta certezza alla sua portata e molto meno problematica della dimostrazione di un concetto di anatomia. Una di queste riforme consisteva nell'agire in conformità a una recente disposizione legale e limitarsi a prescrivere i farmaci senza distribuirli o prendere una percentuale dai farmacisti. Questa era un'innovazione per uno che aveva scelto di adottare la condotta di un medico generico in una città di provincia e sarebbe stata presa come una critica offensiva dai colleghi. Ma Lydgate intendeva apportare innovazioni anche nel campo del trattamento dei malati e fu abbastanza saggio da rendersi conto che la miglior garanzia di esercitare onestamente, secondo la propria coscienza, era di far piazza pulita delle tentazioni sistematiche a fare il contrario. Forse quella era un'epoca più luminosa dell'attuale per gli osservatori e i teorizzatori. Siamo inclini a considerare la più bella era del mondo, quella durante la quale si cominciò a scoprire l'America, quella a cui un ardito marinaio, anche se naufrago, poteva mettere i piedi su un nuovo regno. E attorno al 1829 gli oscuri territori della patologia rappresentavano una bella America per un giovane animato dallo spirito di avventura. Lydgate aveva sopra ogni altra cosa l'ambizione di dare un contributo all'ampliamento della base scientifica e razionale della sua professione. Quanto più si andava interessando a questioni particolari di malattia, come la natura della febbre o delle febbri, tanto più acuto avvertiva il bisogno di quella conoscenza fondamentale della struttura umana, che proprio all'inizio del secolo era stata illuminata dalla breve e fulgida carriera di Bichat, che era morto quando aveva solo 31 anni, ma come un novello Alessandro aveva lasciato un reame abbastanza ampio per molti eredi. Quel grande francese per primo espose la teoria che i corpi viventi, esaminati nelle loro parti fondamentali, non sono gruppi di organi che si possono comprendere studiandoli prima uno per uno e poi, per così dire, come una confederazione, ma devono essere considerati come consistenti di certe membrane o tessuti primari, dei quali vari organi, cervello, cuore, polmoni e così via, sono composti, come le varie parti di una casa sono costruite con varie proporzioni di legno, ferro, pietra, mattoni, zinco e resto, e ogni materiale ha una composizione delle proporzioni particolari. Nessuno, si vede, può comprendere e valutare l'intera struttura o le sue parti, quali siano le sue debolezze e come le si possa riparare senza conoscere la natura dei materiali. E l'idea elaborata da Bichat, col suo studio dettagliato dei diversi tessuti, agì necessariamente sui problemi medici, come l'accensione della luce a gas agirebbe su una strada oscura illuminata a petrolio, mostrando nuovi rapporti e dati della struttura umana finora nascosti, di cui si doveva tener conto nel considerare i sintomi delle malattie e l'azione dei medicamenti. Ma i risultati, che dipendono dalla coscienza e dall'intelligenza umane, operano lentamente e ora, al termine del 1829, la maggior parte della professione medica avanzava ancora con passo impettito o incerto lungo i vecchi sentieri. E vi era ancora da compiere del lavoro scientifico che sarebbe sembrato una diretta conseguenza di quello di Bichat. Questo grande veggente non andò oltre la considerazione dei tessuti come elemento costitutivo dell'organismo vivente, segnando il limite dell'analisi anatomica. Ma era una questione aperta a un'altra mente chiedersi: tutte queste strutture non traggono origine da una qualche base comune, come il vostro ermisino, la garza, il tulle, il raso e il velluto provengono dal bozzolo greggio? Ecco un'altra luce, come di fiamma ossidrica, che mostra la vera grana delle cose e provoca una revisione di tutte le spiegazioni precedenti. Da questa sequela dell'opera di Bichat, già vibrante in molte correnti di pensiero europeo, Lydgate era affascinato, anelava a dimostrare i rapporti più intimi della struttura vivente e a contribuire a definire il pensiero umano in modo più accurato secondo il vero ordine. L'opera non era ancora stata compiuta, ma solo preparata per coloro che sapevano come servirsi della preparazione. Qual era il tessuto primitivo? In questo modo Lydgate poneva la domanda, non proprio nel modo richiesto della risposta che ci si aspettava, ma accade a molti ricercatori di trovarsi in difetto delle parole adatte. Ed egli contava di approfittare attentamente di tranquilli intervalli e per raccogliere le fila dell'indagine, di raccogliere molti suggerimenti con un uso diligente non solo del bisturi, ma del microscopio, che la ricerca aveva ricominciato ad usare con rinnovato fiducioso entusiasmo. Tali erano i piani di Lydgate per il proprio futuro: fare un po' di buon lavoro per Middlemarch e un grande lavoro per il mondo.